persone, due compagni, due ragazzi di allora che hanno partecipato alle manifestazioni di allora hanno lasciato il paese comunque, e altri cinque avranno, e siamo in diretta dal Valle, comunque prossimamente nei prossimi mesi sono stati rinviati in appello per delle attenuanti. Per tutte e 10, insomma, è stata per la prima volta in questo paese c'è stata questa condanna molto pesante per questi reati, devastazione e saccheggio, che con pene così alte e con questa modalità processuale, soprattutto per quanto riguardava dei fatti di piazza così grossi come sono stati quelli di Genova nel 2001, insomma, per noi è stata una sorpresa e anche un punto di riflessione molto grosso. Sempre di più, insomma, in questo ultimo anno abbiamo visto, dopo i fatti del 15 ottobre, ormai di un anno e mezzo fa, 26 persone, poi 25 persone, insomma, gli è stato dato lo stesso reato, i reati di devastazione e saccheggio, per una manifestazione, insomma, che un po' come era quella di Genova, riportava in piazza dei temi che sono importanti, insomma, per la vita di tutti noi, quindi il no al dominio delle banche, la protezione o comunque dei territori e delle lotte sociali anche nel mondo del lavoro e via dicendo. Quindi sempre di più diciamo che tutto quello che è un'opposizione sociale che è andata crescendo negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, ha visto una repressione molto forte su un concetto di ordine pubblico abbastanza manipolabile, diciamo così, è fluido, per cui per qualsiasi, diciamo così, non so come definirlo, comunque per qualsiasi allora, per qualsiasi, diciamo così, cambiamento di quello che è il quieto vivere delle manifestazioni vengono dati questi reati di devastazione e saccheggio. È avvenuto per Genova, per cui insomma, per tutti i processi che ci sono stati a Genova, alla fine a pagare sono 10 persone che hanno preso appunto fino a 15 anni di carcere, mentre per chi ha abusato delle persone con le botte, uccidendo, con la tortura, alla fine insomma è stato fatto ben poco. Non perché ci interessi che ci siano insomma delle condanne per quanto riguarda i poliziotti alla Diaz o Bolzaneto o per i fatti di piazza di quelle giornate, però sicuramente delle sentenze che da luglio a oggi ci hanno dimostrato che valgono più, così abbiamo detto, con la campagna 10%, più le vetrine delle persone, soprattutto la vita delle persone che e i territori che in questi anni sono i veri oggetti poi della devastazione e saccheggio delle nostre vite e dei nostri territori. Per cui volevamo, insomma, oggi abbiamo, in questo anno abbiamo fatto già un altro convegno cercando di porre l'accento su quello che viene sempre di più definito il nemico appunto nell'opposizione delle piazze, per cui la legge in qualche maniera non è più riferita ai reati che si vengono che andando in piazza si compiono e per cui si viene condannati per quelli, ma si viene sempre di più identificate nell'opposizione sociale il nemico dello Stato e per cui l'arbitrarietà giuridica nel condannare. E su questo insomma io appunto lascio sotto la parola a Francesco Romeo, e sono punti di riflessione generale su. Intanto è passato un anno da quando, diceva Cristina, abbiamo provato a fare una riflessione. È passato un anno, è intervenuta questa sentenza nello scorso luglio, nel settembre-ottobre ci sono state le motivazioni della sentenza sui fatti di devastazione e saccheggio di Genova. Sono passati 12 anni dal 2001 e diciamo possiamo pure dire che questa sentenza, che questa vicenda storico-giudiziaria di Genova e in particolare dei fatti di devastazione come sono poi stati portati a giudizio e trattati, ha creato uno spartiacque. Intanto uno spartiacque perché in questi 12 anni si è fatto da parte dell'autorità giudiziaria sempre più ricorso a questa norma repressiva del codice penale, del codice Rocco, no? Perché un codice penale repubblicano ancora in Italia non c'è, cioè il codice Rocco variamente rappezzato, rattoppato dalle sentenze della Corte Costituzionale e dalla cosiddetta interpretazione, poi qui sarà più approfondito rispetto a me il professor Resta, e dalla interpretazione adeguatrice o costituzionalmente orientata che dovrebbe esercitare il settore giudicante della magistratura, quindi le varie corti, tribunali e la Corte di Cassazione. Dicevo, un numero di sentenze sempre maggiore, tanto è vero che oggi nel 2013 noi possiamo, se segmentiamo storicamente la storia giudiziaria repubblicana di questo paese, troviamo un numero di sentenze di condanna in Cassazione per questi reati nel segmento 2001-2013, un numero di sentenze notevolmente maggiore rispetto al segmento 1946-1948-2001. E non è che nel passato, nella storia passata di questa Repubblica, non ci siano state tensioni sociali o conflitti di piazza, ecco, che possano giustificare questa asimmetria statistica che intanto ci dice già qualcosa. Ci dice già qualcosa e se noi andiamo anche a questo punto a legare questo passaggio, enorme aumento delle condanne per questo tipo di reati, se andiamo a legarlo ai soggetti nei confronti dei quali queste condanne per questo tipo di reati vengono irrogate, vale a dire fatti di piazza, fatti di stadio, quindi ultra, e nel periodo precedente detenuti che hanno partecipato a rivolte carcerarie, penso alla Sinara, penso ai fatti nelle carceri di Torino e della Sinara, ecco che già abbiamo anche una tipologia soggettiva che è ben determinata, che è interessata da questo tipo di accuse e da questo tipo di sentenze di condanne. A ciò dobbiamo anche aggiungere che andando a valutare proprio i termini, il significato, la carica semantica, anche qui il professor Resta sarà sicuramente più bravo di me, dei due termini, devastazione e saccheggio, noi riandiamo immediatamente per associazione di idee a situazioni di conflitto, a situazioni di guerra. La devastazione e il saccheggio erano, era il diritto dei vincitori sui vinti. Se una città assediata veniva conquistata, seguiva la devastazione e il saccheggio di quella città, ovviamente. Nel corso del tempo queste situazioni hanno trovato una regolamentazione e hanno poi trovato un precipitato nei vari codici penali, e così anche nel nostro codice penale. Però la circostanza, che i rimandi storici ci parlino di situazioni di conflitto e che oggi, secondo me, questo strumento repressivo venga sempre più utilizzato, è anche un ulteriore indizio del fatto che l'opposizione sociale venga vista in questo ultimo periodo, in questi ultimi 10 anni, 12 anni, come un nemico interno da combattere, ecco, piuttosto che come un soggetto sociale con cui doversi o potersi confrontare. Io passerei adesso a chiudere veloce riassunto per dare spazio soprattutto agli altri oratori con una provocazione, perché mi sembra importante. Dicevamo prima, è stata pubblicata la motivazione di questa sentenza dei fatti di Genova 2001 e la sentenza emessa dalla prima sezione numero 42130 del 2012. Si legge in questa sentenza che l'ordine pubblico, concetto inafferrabile più o meno, poi si vedrà, perché viene in realtà di volta in volta utilizzato alla bisogna da parte dell'assetto statuale repressivo, consiste nel buon assetto regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono nella collettività l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza. Dice questa sentenza che questa è la linea interpretativa che il giudice di legittimità dà ormai da epoca risalente. E noi dice, vabbè, ma che voi, se le sentenze della Cassazione hanno da tempo da epoca risalente, viene citata una sentenza del 73 che riguarda in realtà, per quanto riguarda il dato storico, sono i fatti di rivolta carceraria, non mi ricordo adesso se era la Sinara o le Nuove di Torino. Mi dice, guarda, già in epoca repubblicana è questo il concetto di ordine pubblico, quindi se accade questo, se questo viene, viene ad esistenza, non ci si può lamentare. Tuttavia, se uno va a riguardare la relazione del codice Rocco del 1930, alla, proprio per quanto riguarda il concetto di ordine pubblico, si leggono le stesse esatte, identiche parole. L'ordine pubblico riguarda il buon andamento e il regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono nella collettività l'opinione e il senso di tranquillità e della sicurezza. Ora, noi, come dire, quella relazione, quel codice penale non era un fatto tecnico-giuridico, era un fatto politico. Quella relazione è un fatto politico di un regime autoritario. Io credo che questo debba essere sottolineato. Non può essere che in epoca repubblicana una corte di legittimità riproduca esattamente gli stessi termini della relazione di accompagnamento al codice penale fascista. È un evidente errore concettuale. Probabilmente la pigrizia e la ripetizione del concetto è passata in questi termini, però io non credo che richiamarsi alla relazione, anche involontariamente, del codice penale fascista possa essere operazione interpretativa accettabile nello Stato repubblicano. Questo lo dico perché è anche questa una argomentazione che va portata, perché il problema che ci si pone di fronte è anche quello di far veicolare un pensiero diverso, un pensiero costruito su basi, diciamo, costituzionali e repubblicane forti, che non possano cedere a richiami all'indietro. È vero che anche l'ultimo ministro della giustizia si è fatto un passo avanti, viene direttamente dai vertici del Ministero dell'Interno, e quindi possiamo tutti immaginare l'ampiezza di vedute e la democraticità che ne connoterà l'azione. Ma il precedente ministro della giustizia aveva pure avuto, come dire, l'ardire di sottolineare che il codice Rocco era un monumento perfetto di tecnica giuridica, nel silenzio e nell'indifferenza generale. Io credo che in uno Stato che si definisca Repubblica non possa passare così per via imitativa quello, il prodotto dell'ideologia di un regime autoritario. Credo sia un'operazione scorretta e credo sia necessario coinvolgere su questo le intelligenze dell'Accademia, le riflessioni del pensiero accademico universitario, perché si possa percorrere una via diversa e si possa addivenire a una interpretazione più confacente alla situazione e allo Stato in cui uno Stato che si dica repubblicano e costituzionale rispetto a uno Stato autoritario e repressivo. Io adesso termino qui, poi cedo la parola a Cristina per... Allora, ricordo che questo convegno sta andando in streaming sul sito della radio e sulle frequenze di Radio Onda Rossa. E allora, Donatella Della Porta, sociologa, ha scritto tantissimi libri, alcuni libri analizzando soprattutto la questione dell'ordine pubblico, alcuni proprio partendo da Genova, e in un tuo intervento dai microfoni della radio hai parlato molto di quelle che sono, diciamo così, proprio il titolo deriva quasi da una tua affermazione, cioè la libertà di conflitto. In un paese in cui non c'è opposizione partitica, nel senso che c'è un'omologazione da governi tecnici a governi di unità nazionale, comunque anche l'attuale, sempre di più, insomma, dovrebbe avere, tra virgolette lo metto, legittimità un'opposizione sociale che invece viene considerata sempre di più un nemico, per cui le istanze che vengono portate avanti dalla piazza, istanze che in qualche maniera a 11 anni di distanza, anche quella di Genova, possiamo dire, avevano in qualche maniera ragione anche di come il mondo capitalistico sta evolvendo, quindi la fame dei più nella ricchezza dei pochi, e la devastazione dei territori, il saccheggio delle vite e via dicendo, in qualche maniera viene del tutto considerato un nemico e quindi da annientare. Grazie Cristina. Si sente? Sì. Grazie di questo invito in questo bellissimo Valle Occupato. mi piace anche molto la frase, come triste la prudenza. Vediamo se in questo dibattito si può andare al di là della prudenza. Quello che volevo fare in pochi minuti è vedere in generale cosa ci dicono gli studi di cui parlava Cristina sull'ordine pubblico e come spiegano che caratteristiche la repressione assume in alcuni momenti. Vorrei vedere quali sono queste caratteristiche oggi in relazione anche a tempi recenti, e vorrei vedere anche quali sono le spiegazioni, affrontando direttamente il tema a cui accennava Cristina, del perché oggi in particolare il dissenso sembra essere considerato come così pericoloso. E nel rispondere a questa domanda penso che ci siano tanti aspetti previsti, nel senso tante risposte a questa domanda che corrispondono ai risultati degli studi del passato, ma anche alcuni paradossi che vorrei sottolineare. Controllo dell'ordine pubblico, come è stato appena detto, è un tema particolarmente delicato perché l'ordine pubblico è particolarmente aleatorio nella sua definizione. Non si tratta di punire reati, ma di cercare di mantenere un equilibrio. Quindi, normalmente nel corso di azioni di ordine pubblico si possono punire non reati e si possono mandare non puniti reati. Anzi, nel corso dell'ordine pubblico normalmente c'è una tolleranza di violazioni minori delle regole. Ma questo vuol dire anche che la legittimazione che normalmente hanno i gestori dell'ordine pubblico, noi interveniamo rispetto ai rischi reali, è in parte una costruzione. In realtà non si interviene rispetto a esistenza di reati, ma si interviene rispetto a percezioni di rischio, di pericolosità di una certa situazione. E queste percezioni di pericolosità e l'intervento che normalmente viene utilizzato per rispondere a questo non sono determinate soltanto dalle caratteristiche dei fatti di per sé, come spesso la giustificazione che viene utilizzata dai gestori dell'ordine pubblico vorrebbe, ma sono determinati da un insieme di fattori. Sono determinati da quello che nella ricerca sull'ordine pubblico, il controllo dell'ordine pubblico, abbiamo definito sapere di polizia, cioè il modo in cui la polizia percepisce il proprio ruolo e percepisce la pericolosità dei diversi gruppi, ma anche il modo in cui la polizia percepisce la pericolosità di certi tipi di interventi rispetto ad alcuni gruppi. Quindi i gruppi non sono pericolosi di per sé perché propensi alla violenza, ma anche possono essere trattati in maniera diversa a secondo del tipo di reazioni nell'opinione pubblica, nelle istituzioni, un certo tipo di intervento da parte della polizia può realizzare. Cioè, la polizia è sensibile anche alle richieste che vengono dalle istituzioni e alle percezioni che i dirigenti di polizia stessi hanno rispetto a quali sono i tipi di, possiamo dire, alleanze che i diversi gruppi possono avere all'interno dell'opinione pubblica e all'interno delle istituzioni stesse. Poi naturalmente la reazione della polizia è anche determinata da una serie di risorse simboliche di legittimazione e materiali che la polizia ha. E da questo punto di vista il tipo di leggi, oltre che il tipo di armamentario che la polizia utilizza nel corso degli interventi di ordine pubblico, hanno una funzione rilevante nel determinare le scelte. E poi c'è un elemento di contingenza legato all'emergere di conflitti ampli al cui interno specifici episodi si collocano. Questa premessa è per cercare di collocare all'interno di questo generale approccio anche quali sono le specificità del momento attuale, che sono specificità che riguardano da un lato in particolare l'Italia, ma dall'altro anche più in generale anche le democrazie cosiddette ad alta qualità, che queste qualità stanno perdendo rapidamente, e in particolare i paesi del sud Europa, dove i conflitti sociali sono diventati più acuti nel corso della crisi. Quello che voglio dire da questo punto di vista è che nelle ricerche che sono state fatte sull'intervento della polizia si è visto che l'intervento era collegato all'evoluzione dei conflitti sociali, che era a sua volta collegata alle caratteristiche che i rapporti tra Stato e capitalismo acquisivano nei diversi periodi. Se negli anni 60-70 si parlava di conflitti che erano determinati da una situazione di capitalismo post-fordista e poi dalla crisi di questo capitalismo, e se negli anni 2000 gli episodi di Genova si possono collegare alla fase neoliberista del capitalismo, io credo che in questo momento le caratteristiche stesse del conflitto esistente possano essere definite all'interno di una sorta di crisi di un tardo neoliberalismo che porta con sé una serie di caratteristiche specifiche di questi conflitti. Cosa c'è da spiegare? Sicuramente a partire da Genova, da questo punto di vista, anche secondo le nostre ricerche, sicuramente Genova è uno spartiacqua, ma Genova vuol dire anche Seattle, vuol dire anche Göteborg, vuol dire anche Praga, vuol dire anche Napoli in Italia, vuol dire un percorso di trasformazione rispetto a forme di conflitto e forme di repressione. Ci sono state alcune trasformazioni. Da sociologi avevamo teso a individuare una sorta di tendenza che in realtà non si è poi rilevata tale. Quello che si era osservato negli anni 80 e l'inizio degli anni 90 era una sorta di civilizzazione del conflitto, con una tendenza anche degli interventi di polizia verso una de-escalation, una tendenza a assorbire i conflitti più che prenderli di petto, una tendenza al negoziato e una tendenza anche dal punto di vista dell'intervento giudiziario verso una riduzione dell'uso di alcuni strumenti, o almeno un'implementazione in maniera contraddittoria. Una serie di forme di protesta che prima erano criminalizzate nel corso del tempo sono state, fino ad allora, decriminalizzate in parte almeno, occupazioni, blocchi stradali e così via. Genova rappresenta uno spartiacque nel senso che da queste politiche di de-escalation nell'ordine pubblico si passa invece a politiche che possiamo definire di incapsulazione del conflitto. Cioè la tendenza è quella della costruzione delle grandi zone rosse dove ai manifestanti non è consentito di entrare. La tendenza è quella all'utilizzazione di strumenti vecchi e nuovi che permettono di reprimere in maniera forte soprattutto alcune espressioni di conflitto. Quello che è sempre emerso nel corso delle ricerche sulle forme di repressione è che colpiscono in maniera differenziata gruppi diversi. Alcune forme di protesta, le stesse forme di protesta hanno una reazione diversa a secondo del tipo di gruppo sociale e politico che le porta avanti. Da questo punto di vista si osserva sempre la presenza di una strategia di ordine pubblico molteplici, ma quello a cui assistiamo a partire da Genova e in maniera ancora più intensa a partire dal ciclo di protesta contro le politiche di austerità che inizia in Italia nel 2008, è l'utilizzazione di leggi vecchie e nuove, spesso nate come leggi antiterrorismo, come leggi contro gli hooligans dello stadio e così via, per reprimere la protesta attraverso una utilizzazione intensa, come si diceva prima, di reati accusativi, di reati di tipo associativo attraverso un uso anche di leggi antiterrorismo, ma anche attraverso l'uso di reati come devastazione e saccheggio, che ricorda Livio Pepino in un suo saggio, non erano stati usati neanche ai tempi delle attentate a Togliatti, e che erano stati dimenticati nella distrazione degli partiti di centro-sinistra, anche nei momenti in cui sembrava che fossero andate fuori uso. Tutte queste leggi e regolamenti vengono utilizzate oggi non solo in Italia, ma anche nella repressione dei movimenti come quelli degli Indignados o come quelli di Occupy, unite a tutta una serie di leggi e regolamenti che vengono dal passato, dalle leggi e regolamenti che riguardano la salute pubblica a leggi e regolamenti che riguardano la repressione di reati di vario tipo. Ecco, arrivo alla domanda di Cristina. Perché oggi? Secondo me ci sono delle ragioni che rendono questa svolta in linea con aspettative esistenti. Quando diventa la repressione più forte? Quando ci sono conflitti nuovi? E il conflitto che si è sviluppato dal 2008 ad oggi, è già il conflitto di Genova, aveva caratteristiche diverse rispetto a quelli ai conflitti del passato. Aveva attori politici e sociali diversi, aveva soprattutto molta meno canali di accesso alle istituzioni. Movimenti in tempi di crisi come i movimenti di oggi sono anche movimenti che hanno maggiore rabbia, minore speranza e minore possibilità di trovare spazi di riforma all'interno del sistema. Movimenti in tempi di crisi come si può ricordare in Italia i movimenti del 77 sono anche i movimenti che non trovano alleati all'interno del sistema politico. Il movimento operaio negli anni 50 è stato fortemente represso, 100 morti nel corso di manifestazioni, 100 manifestanti uccisi dalle forze dell'ordine, però c'erano anche dei partiti forti, dei sindacati che rappresentavano questi conflitti. Dal 2001 e ancora di più nell'ondata di protesta del 2008 i movimenti si sono ritrovati senza attori disponibili a una mediazione. Le politiche di austerità hanno rappresentato dal punto di vista politico anche una scelta da parte dei partiti di centrosinistra, che sono diventati i principali fautori e i principali sconfitti nel loro sostegno alle politiche di austerità. Pensate al PSOE in Spagna o al PASOK in Grecia o al PD in Italia. Sono stati in questi momenti c'è stato in questo momento un allineamento del sistema istituzionale in una direzione che andava nella direzione esattamente opposta rispetto a quella delle domande presentate dai movimenti. In Italia questa situazione è stata accentuata dal susseguirsi di governi tecnici e di governi di grande coalizione. Governi di grande coalizione come quello dell'Inciucio o del Bunga Bunga dei tempi recenti sono i governi più repressivi. Sono i governi più repressivi perché non hanno o non riconoscono un'opposizione all'interno delle istituzioni. Alfano, ministro dell'Interno, è come dire, tutto un programma senza bisogno di andare a immaginarlo, ma soprattutto Alfano, ministro dell'Interno di un governo presieduto da un membro del Partito Democratico. Questo vuol dire che la formazione del governo stesso prevede l'esclusione di una serie di domande che vengono dal basso, quindi collusione all'interno dei partiti con esclusione di membri dell'opposizione, con l'esclusione di una opposizione esistente. Altra previsione, perché adesso più repressivo, perché della sinistra istituzionale sembra essere rimasto ben poco. Normalmente la repressione aumenta quando diminuiscono la percezione anche da parte della polizia che un intervento duro possa portare dei problemi politici, perché c'è una sinistra istituzionalmente forte o almeno presente. La situazione italiana attuale, ma anche la situazione nel resto del Sud Europa, è una situazione in cui i partiti che una volta avevano rappresentato questi canali di mediazione tra movimenti e istituzioni sono spariti o si sono arresi rinunciando a svolgere questa funzione. Altro problema che spiega perché la repressione aumenta con poca capacità di resistenza fino ad ora sono le divisioni all'interno della sinistra. C'è un'opposizione nel Parlamento oggi, però è un'opposizione divisa. Non voglio entrare adesso nelle differenze che segnano il modo di fare politica di un'opposizione come quella del Movimento 5 Stelle, dal modo di fare politica di un'opposizione come quella di SEL. Però se non si riesce a creare un collegamento fra queste due opposizioni, sicuramente le opportunità di intervenire sulla una repressione aggressiva e crescente saranno ridotte. SEL è forse l'opposizione più vicina alle caratteristiche di questo movimento, ma è un'opposizione debolissima, con un 3% di rappresentanti. Movimento 5 Stelle è un'opposizione parlamentarmente forte, ma che ha bisogno di entrare in contatto più intenso con i movimenti che vengono al momento repressi. Io credo che questo tipo di rapporto fra le opposizioni possa crescere anche sulla base di una prospettiva di comune, come si può dire, di rimanere insieme vittime di un discorso repressivo e di una pratica repressiva. Ma credo che la strada sia comunque lunga. Perché parlavo anche di paradossi? Quindi tutte queste sono possibili spiegazioni già esistenti, come si dice in letteratura, che possono far capire perché in Italia oggi la repressione è così forte, perché sembra che ogni spazio di dissenso sia chiuso, perché la stampa nel suo complesso, da quella che una volta si considerava di centro-sinistra a tutto il resto, a quella che una volta si considerava di qualità, ha assunto una posizione di forte sostegno a una repressione di tutto, dai Notav in Val di Susa ai movimenti locali più pacifici che ci siano. Ecco, in diretta dal convegno del Teatro Valle, come dire, va nella direzione del questo è l'intervento della sociologa. Ci sono anche però alcuni paradossi. Donatella, prima delle elezioni, Della Porta, tutti i partiti dal centro-sinistra al centro-destra invocavano la società civile, invocavano un intervento dei cittadini, tacciando poi di populismo e antipolitica qualsiasi cittadino che intervenisse in realtà. Però questa retorica del apriamoci alla società civile è una retorica che si frantuma di fronte alla repressione di ogni dissenso. Fa emergere la contraddittorietà di un concetto come quello di società civile, evocato nella rivoluzione civile di Ingroia o persino nella scelta civica di Monti, che in realtà però viene percepito come società civile pacifica, silenziosa, accondiscendente, come dice lì, prudente, passiva. Quindi però questa retorica fa anche pensare che ci sono degli spazi di possibile incrinamento di un fronte repressivo, perché fa anche pensare che ci sono degli spazi di riconoscimento di una totale delegittimazione delle istituzioni al momento. Persino i partiti politici sanno che secondo i sondaggi la percentuale di italiani che si fida dei partiti è del 3%. È Si può auspicare che qualche riforma dall'interno emerga. Altro elemento rilevante che potrebbe intervenire rispetto a questi trend negativi è legato alla presenza di una società civile che nonostante tutto si rafforza, cioè seppure la sinistra è in crisi, seppure secondo me alcuni tipi di slogan non riescono a mobilitare i cittadini, però dall'altra parte sia i sondaggi che l'attenzione alle vicende locali portano a pensare che gli cittadini in realtà si attivano, non solo nell'occupare il Valle a Roma, ma anche in una serie di micro conflitti a livello locale che indicano che i cittadini delusi dai partiti non sono però passivi, non sono però disponibili a rinunciare a fare politica. E questo è un altro elemento che interviene nella direzione, diciamo, di una possibile reazione alla repressione stessa. E da questo punto di vista io credo che le esperienze come quelle di oggi indicano anche la prospettiva di una possibile resistenza non civile ma pacifica che possa anche secondo me superare un altro limite che al momento esiste in queste movimenti antirepressione, che è quello di una eccessiva nazionalizzazione e localizzazione. Il movimento di Genova era un movimento globale. Per tante ragioni anche comprensibili, i movimenti anti-austerity dal 2008 ad oggi sono stati molto più ancorati a livello nazionale. Ci sono stati dei contatti, ci sono state delle interazioni, ma c'è stato anche un forte limite nell'espansione a livello globale di questi contatti. E invece la resistenza alla repressione sicuramente implica la necessità, dato che i percorsi sono molto simili di repressione nei diversi paesi democratici, implica anche la necessità di collegamenti transnazionali. E infine un'ultima osservazione: altro paradosso delle forme di protesta così duramente represse è che mai come oggi le forme di protesta sono state così pacifiche. Mai come oggi nei diversi conflitti c'è stata un'attenzione coinvolgere le persone all'interno di forme d'azione non violente. E questo è anche un elemento che credo individua un paradosso: la repressione forte contro i movimenti pacifici, ma al contempo sia un elemento di forza, perché è un elemento che permette di ampliare il potenziale di sostegno per questi movimenti. Quindi, in sintesi, non è un momento facile, però io credo che ci siano anche delle tendenze che possano svilupparsi, che si stiano sviluppando di recente, che possano riportare una rivendicazione forte del diritto a dissenso. Grazie. Beh, sicuramente una cosa da Genova dal 2001 ad oggi l'abbiamo, insomma, a Genova un po' l'abbiamo vissuta, però poi l'abbiamo dovuta incamerare, e sicuramente dal 2008 è uscito fuori, che è proprio la crisi della rappresentanza, nel senso, questo vale sia a livello partitico ma vale anche a livello sociale, diciamo così, per cui la partecipazione in prima persona del tra virgolette dei cittadini è sempre più grossa, sempre più sviluppata, sempre più diffusa, no? e nelle varie forme. Allora, do la parola alla giuressa. Abbiamo parlato insomma dell'ordine pubblico nelle piazze. Prima l'avvocato Romeo faceva riferimento alla sentenza della Cassazione del luglio del 2012 con un Ctrl C Ctrl V al codice Rocco, c'è una copia e incolla del codice Rocco. Sicuramente, diciamo così, il codice Rocco c'ha tutto ci andrebbe fatto quasi un seminario a parte, una discussione a parte, però sicuramente a livello giuridico in questi anni non si è tanto parlato di una riforma del codice Rocco. Cosa dice il codice a livello di ordine pubblico? Siete sempre in diretta su Radio Onda Rossa. Questo è lo streaming del convegno del Teatro Valle Occupato. Grazie, non voglio annoiarvi con i soliti discorsi dei giuristi così dentro le forme e fuori dalla realtà, però mi ritrovo molto tanto nelle analisi. Dicevo che mi ritrovo molto nelle analisi che sono state fatte da Donatella Della Porta e dall'avvocato Romeo. Voglio ripartire esattamente da questa forte condivisione della diagnosi della dimensione del conflitto. Ora, in una formula, io penso che sia corretto dire che più i conflitti si affacciano sulla scena della società civile, più il meccanismo della repressione aumenta. Le ragioni di tutto questo sono nel carattere profondamente nuovo, rivendicativo di questi movimenti della società civile, l'assenza di mediazione che ci porta a riflettere sul meccanismo della rappresentanza, ma direi che insieme a questo bisogna mai dimenticare che si tratta anche di una dimensione di poteri beceri, cioè il conflitto oggi è un conflitto che si trova di fronte un potere sempre più stupido. È questa la diagnosi rispetto alla quale bisogna ripartire, anche con quell'ottimismo che poi alla fine nella discussione di Donatella Della Porta veniva fuori. Io credo che questi movimenti sempre meno localistici e sempre più globali debbano sviluppare fino in fondo, proprio grazie all'idea del potere becero, una dimensione gandhiana, una dimensione di non violenza, una dimensione che sia capace di trovare anche semantiche aggregative che siano profondamente lontane dal potere. E qui voglio partire, scusatemi, da un piccolo vezzo biografico. La storia di Genova è una storia che mi ha attraversato profondamente, perché ero in quegli anni al Consiglio Superiore della Magistratura, membro laico eletto dal Parlamento. Io fui davvero preoccupato perché circa 15 giorni prima di Genova arrivavano informative molto vaghe sul fatto che bisognava blindare Genova. Ho cominciato a tendere le orecchie, tanto più che vi era in programma la settimana seguente un comitato per l'ordine e per la sicurezza. Ora, ricordate tutti chi era il ministro della giustizia, e l'informativa riguardava il fatto che bisognava prestare 200 celle per minori facinorosi e che bisognava chiudere i tribunali. Ora, io ho avuto la sensazione che si stesse davvero scendendo ad un livello di totale illegalità da parte delle istituzioni, e ahimè ho avuto ragione. Persino i magistrati bravi che erano in consiglio non hanno percepito il senso del problema, e è successo che i tribunali sono stati chiusi in base all'idea della zona rossa, l'invalicabilità. Qui bisognerebbe scovare anche categorie di analisi un po' più complicate, per esempio l'idea di campo. L'idea di campo qui ci aiuta molto. Cos'è la zona rossa? La zona rossa è la zona dell'intangibilità del potere, rispetto alla quale non esistono più tribunali, avvocati, garanzie. Ora, questo è il punto. Mi ritrovo molto nell'analisi che ha fatto l'avvocato Romeo. Io non voglio rinunciare all'idea che i tribunali non debbano essere soltanto repressione, ma debbano essere luoghi di promozione dei diritti. E qui c'è una lunga storia che non vorrei venisse persa oggi. È la storia una lotta per i diritti, che non è mai facile, ma che attraversa in fondo tutto il tessuto di quel po' di illuminismo che ci rimane in questa civiltà. Cosa voglio dire? Dobbiamo guardare ai tribunali come il luogo di una difesa vera contro il carattere becero e repressivo del potere. Qui voglio ricordare anche un episodio che mi aveva colpito. Quel ministro della giustizia aveva anche proposto di istituzionalizzare la tortura. E l'ipotesi era che se ci fosse stato il caso di un recidivo, la tortura diventava legittima. Ora, io capisco che un ingegnere non sappia nulla della tradizione giuridica, però... grazie a Dio un ministro della giustizia, bisognerebbe mandargli in fotocopia alcune due pagine di Beccaria, senza esagerare, insomma. Bisognerebbe fargli leggere i grandi classici. Che cos'è il diritto penale? Insomma, questo bisogna che noi ancora una volta lo ricordiamo. Il diritto penale è nato non per reprimere, ma il diritto penale è nato per difendere l'imputato, è nato perché non ci potessero essere forme arbitrarie di condanne e di punizione. Ed è molto semplice la diagnosi: il potere non aveva alcun bisogno diritto penale. Chi aveva bisogno di diritto penale? Erano i soggetti sottoposti al diritto penale. E qui si innesta un'altra storia, è una storia che continua fino a noi e che ci riporta immediatamente al codice Rocco. A proposito, se io dovessi indicare qual è un libro capace di spiegarci il problema della politica dell'ordine pubblico, non citerei I giuristi, citerei uno splendido romanzo di Gaddi. Che si chiama Eros e Priapo, dove viene discussa la cosiddetta federsonite dell'urbe. La federsonite dell'urbe, Federsoni era il ministro degli interni ai tempi del fascismo. Ora, ordine pubblico fa parte di una strategia del codice Rocco. Il codice Rocco lo possiamo descrivere come una sorta di piramide rovesciata. Alla base c'è proprietà e libertà, la fase intermedia, molto corposa, riguarda tutta la sfera pubblica, la fede pubblica, l'industria pubblica, l'ordine pubblico. E poi alla fine, in cima, e qui si sente il codice di uno Stato autoritario, vi sono i reati contro lo Stato, i reati contro la pubblica amministrazione, i reati contro lo Stato, i reati di vilipendio del Presidente della Repubblica e cose del genere. Cos'è questa sfera pubblica? Beh, è la coincidenza con una idea di Stato, di una idea di Stato che non ha nulla a che fare con la società politica, che si è totalmente separata dalla società politica. Questo ci porta anche a capire perché è fortemente emancipativo un movimento che riparta dalla società civile, che al limite si sacrifichi nel successo saltando la mediazione delle vecchie forme della politica. In questo è fortemente emancipativo, perché è la società civile che si riappropria di una dimensione. Ora, ordine pubblico è una parola di facili costumi, una formula di facili costumi. Si parla di tranquillità e di sicurezza. Già, la tranquillità è quella che i poteri pubblici dovrebbero assicurare ai cittadini grazie a un ordinato riconoscimento dei loro diritti. Dovrebbero essere imputati per reati contro l'ordine pubblico i pubblici poteri. La sicurezza mica è la sicurezza della videosorveglianza, la sicurezza è la sicurezza dei diritti, sapere quello per cui uno è responsabile, ma sapere anche la sfera di intangibilità delle persone. Guardate, ieri pomeriggio ero a Milano a discutere un libro molto interessante di David Garland, un grosso studioso delle istituzioni carcerarie, che ha scritto questo libro sulla pena di morte. Ora, è strano, ma nel piccolo e in una dimensione fortemente comparativa, quello che sta succedendo negli Stati Uniti con una forte revanche della pena di morte è esattamente quello che sta avvenendo in tutti gli altri paesi, ed è una cosa vecchia come il cucco: è l'uso politico delle forme giuridiche, uso politico del diritto penale. Altra piccola annotazione che ci aiuta a capire: la storia del diritto penale nasce con una forte separazione fra nemico e criminale. Se non ci fosse stata questa separazione, il diritto penale non sarebbe nato. E perché? Perché il diritto deve scommettere sulla sua differenza. E la differenza rispetto a cosa? Alla guerra. Non deve essere la guerra dei più contro il colpevole, e ancora di più. Dove ritorna l'idea del nemico? Ritorna dove il diritto penale è debole. Il diritto penale, nella sua debolezza, smette di essere fedele alla sua differenza. E qual è la differenza? Giudicare qualcuno per quello che ha fatto, non per quello che è. Ora, che cosa avviene quando ritorna il nemico? Si valuta non per quello che ha fatto. Pensate che cos'è la fattispecie molto larga della devastazione, del saccheggio. Tecnicamente è una cosa difficilissima da dimostrare. Ora, ritorna tutte le volte in cui si attribuisce un uso strumentale al diritto penale. Ma in questo la tradizione italiana è una tradizione spaventosamente arretrata. Guardate che non va sottovalutata la continuità fra questo tipo di politica e la scelta degli anni Ottanta di curvare il diritto penale a uso strategico. Un esempio: i pentiti. I pentiti sono il meccanismo per cui non si riesce a fare nulla nella lotta contro l'illegalità, e quindi usiamo il diritto penale per perseguire. Esempi di questo tipo sono, tanto dal punto di vista repressivo quanto dal punto di vista emancipativo, davvero pericolosi. Ora, quando torna il diritto penale del nemico? Torna quando ci sono fasce della popolazione che non vengono tollerate perché sono diverse. Il diritto penale del nemico è il diritto che parla in nome dell'ordine pubblico che viene turbato dallo spaccio di droga, dal consumo di droga, dalla prostituzione. E qual è l'esito di tutte queste cose? È che bisogna curvare a ancora una volta il diritto penale alle fattispecie del momento. Ora, la mia diagnosi è semplice e con questo chiudo. Certo, il codice Rocco magari nella parte generale potrebbe anche essere un buon esempio di diritto penale liberale. La parte speciale è profondamente legata alle ingiustizie del fascismo, ma quello che è avvenuto dagli anni 60 in poi in Italia è un peggioramento insopportabile del codice fascista Rocco. Grazie. Allora, avvocato Menzione, fa parte del legal team, diciamo nel corso degli anni anche a Genova, insomma, si sono costituiti degli avvocati per appunto per difendere quelli che poi erano gli arrestati fermati nelle piazze, quindi un numero che veniva distribuito, è sempre stato distribuito durante le manifestazioni affinché ci si potesse rivolgere anche in maniera gratuita, diciamo così, o comunque come aiuto momentaneo, comunque immediato, a in caso di arresto, di fermo, eccetera. E questo, insomma, appunto, se gli va di spiegarci come funziona e se poi ha avuto e ha ancora una valenza, una importanza, eccetera. E poi volevo ritornare un attimo sui reati di devastazione e saccheggio, che ovviamente, avendo lei seguito tutti i processi da Genova ad oggi, se le andava, insomma, di raccontarci un po' questo reato, come nasce, come viene applicato. E poi si arriva, insomma, agli ultimi processi, che sono quelli poi del 15 ottobre, che vedranno, che già hanno visto delle condanne a 6 anni, ma che, insomma, vedranno il prossimo 27 giugno anche un'altra udienza, a cui, insomma, l'invito è sempre la partecipazione e l'attenzione a questi processi. Radio Onda Rossa, state ascoltando la diretta. Grazie. Dal Teatro Valle Occupato. Grazie. Del convegno Libertà di Conflitto. Seguendo. Grazie a chi ci ospita in questo spazio non solo bello ma molto significativo, che si faccia una riflessione su queste questioni di ordine pubblico, libertà di pensiero, libertà di espressione, limiti e così via, in uno spazio che si è voluto, per dir così, gestire in proprio, recuperare, non disperdere, mi sembra profondamente importante. Cos'è il legal team? Non faccio uno spot, naturalmente, è soltanto una breve descrizione di cos'è questa associazione di avvocati. Di avvocati e solo di avvocati. Siamo nati proprio in concomitanza, non casualmente, con le giornate di Genova del 2001. Un gruppo di avvocati nelle settimane precedenti, annusando il clima di cui parlava Eligio Resta, e tutti ce lo ricordano, cioè tutti quelli che hanno almeno una, come dire, una certa età se lo ricordano, si era percepito che si andava ad un momento molto pericoloso, ma non solo per i manifestanti ma per la democrazia stessa. E decidemmo di fare quello che era già stato fatto a Seattle e a Göteborg, cioè predisporre una task force che intervenisse possibilmente già durante le manifestazioni, le giornate di manifestazione, per cercare di arginare eventuali soprusi o eventuali elisioni delle libertà dei cittadini che fossero perpetrate in quelle giornate da parte delle forze dell'ordine. O quantomeno, e difatti poi in qualche modo abbiamo dovuto, come dire, soprattutto concentrarsi su questo, tenere traccia di ciò che stava accadendo per poi poterlo utilizzare nei momenti giudiziari che ci sarebbero stati. Dico che per forza di cose siamo dovuti declinare su questo secondo aspetto, perché il primo aspetto, vale a dire la possibilità di interposizione, durò fino al giovedì, ma poi dal venerdì in poi fu impossibile, anzi, se vogliamo ironizzare, possiamo dire che gli avvocati che avevano la pettorina gialla con su scritto lawyers negli ultimi 2 giorni sono diventati quasi un obiettivo privilegiato per essere malmenati dalle forze dell'ordine. E quindi anche noi in certa misura scappavamo come scappavano tutti i dimostranti. Abbiamo cercato comunque nel nostro ufficio alla Pertini, la succursale della Diaz, di tenere traccia di ciò che stava succedendo. Da qui si è innescato il fatto che diciamo i legali del Legal Team sono stati anche in prima fila in tutti i processi di Genova, sia quelli con i tre grandi processi collettivi che vedevano i manifestanti o imputati o parti lese, sia anche nella miriade di processi piccoli per fatti di strada, come si suol dire, resistenze, violenze e così via, anche con discreti successi. Persino per quanto riguarda il processo più grave, quello di cui al nome dell'incontro di oggi 10%, che certamente non ha avuto un esito positivo, diciamo che siamo riusciti, dicevo prima, anche grazie all'intervento di Donatella, non ultimo, diamo onore al merito, a insinuare come dire, dei punti di crisi e a ottenere cose che non era banale riuscire a ottenere in sentenza. Se non tutte e 25 sono stati condannati, è proprio grazie anche alla ricostruzione legale che siamo riusciti a proporre, che è passata su alcune questioni, non purtroppo sulla devastazione e saccheggio. Dall'esperienza di Genova siamo poi transitati a quella che è quasi una consuetudine, per dir così, a livello nazionale, cioè che ad ogni manifestazione che si suppone pepata, per dir così, o comunque che potrebbe essere un momento di crisi, veniamo preventivamente chiamati, così come spesso veniamo chiamati poi a gestire le eventuali conseguenze giudiziarie di queste manifestazioni, ma non soltanto delle manifestazioni, perché negli ultimi anni ci siamo occupati poi anche di altri momenti di protesta, tipo appunto le occupazioni, chiamiamole così, no? Sia in sede penale che eventualmente in sede civile e così via, ma soprattutto nel penale, devo dire, onestamente. E quindi è un'esperienza che si è consolidata. Oggi siamo parecchie decine di avvocati dislocati più o meno su tutto il territorio nazionale, ci consideriamo a disposizione di un movimento che intenda esprimere liberamente il proprio pensiero, non soltanto con la scrittura ma anche con la manifestazione del pensiero e la manifestazione concreta dei propri orientamenti e così via. Assistiamo anche a un processo che sembra quasi irreversibile di continuo deterioramento e erosione degli spazi di libertà per quanto riguarda la manifestazione del pensiero, e ci confrontiamo quotidianamente nelle aule su queste problematiche. Detto tutto ciò sul Legal Team, anche per chiarire come il discorso che vado facendo su devastazione e saccheggio muova proprio da un'esperienza molto concreta, quella di quelle giornate. Noi l'abbiamo constatato, se c'era se ci fu devastazione, se ci fu saccheggio, se ciò che ci fu, e indubbiamente ci fu una protesta molto molto forte, attingeva oppur no a quelli che sono i canoni di questo famoso articolo 419 del codice penale. Quindi radici molto concrete, per dir così. Per quanto riguarda questo articolo, io ciò che il punto su cui ha chiuso Eligio mi consente di rimandare la palla proprio dicendo che non c'è dubbio, il 419, devastazione e saccheggio, reato contro l'ordine pubblico, si colloca in un titolo del nostro codice, un capitolo per intenderci del nostro codice, che è il quinto, che è quello che tutela l'ordine pubblico, è composto di 10 articoli. Ecco, per carità, è forse quello che più di ogni altro risente dell'impianto autoritario che ha generato questo titolo, perché naturalmente dietro le forme, il concetto di ordine pubblico, ci può stare un concetto, qual era quello, l'ordine fascista, per dir così, così come però ci potrebbe stare anche altre forme di ricostruzione o di intesa dell'ordine pubblico, ed Eligio ce n'ha dato un flash molto importante e molto significativo. Però, ahimè, questo indirizzo non è sicuramente condiviso, devo constatare, dalle pronunce, ma dallo stesso legislatore. Ho detto 10 articoli, mica 150, 10, che sono probabilmente il cuore autoritario del nostro codice, non l'unico, ma quello più pulsante, per dir così. Beh, teniamo presente che su 10, 7 sono stati riformati in peggio dal legislatore dell'Italia repubblicana, e tutti questi o riformati o addirittura due introdotti che prima non c'erano, il 416 bis famigerato e il 416 ter. Quindi diamo a Rocco quel che è di Rocco, ma diamo anche a questa Repubblica così difficoltosa nel riconoscere le libertà, nel muoversi su questo terreno giustamente beccariano, per dir così, che dovrebbe essere beccariano, che invece si rivela ostico soprattutto per il nostro legislatore, ma non soltanto, anche per i nostri giudici. Il 419 paradossalmente è uno dei soli tre articoli che sono rimasti perfettamente intatti da Rocco in poi. Si vede che faceva comodo a Rocco e ha fatto poi comodo anche all'attuale Italia repubblicana. Quello subito dopo, per esempio, altrettanto importante, altrettanto discutibile, attentato agli impianti di pubblica utilità, è nuovo di zecca, insomma, è degli anni 70, tanto per dire, no? E allora misuriamoci su questa devastazione e saccheggio che tiene in galera 10 giovani per 100 anni, eh? Perché di questo si tratta, no? Vorrebbe tenere in galera. Ora poi, dopo l'intervento della Cassazione, qualche diminuzione c'è stata, qualche altra ci sarà, speriamo, nel giudizio di rinvio, però certo, comunque, quando si danno 10 anni per un reato che attingerà anche alla messa in crisi dell'ordine pubblico, ma poi di fatto comunque è un reato contro beni patrimoniali e quindi contro le cose e non contro le persone, e si percepisce subito che c'è qualcosa che non torna. Dai 10 anni in su si danno per ben altri delitti contro la persona, voglio dire, spesso si danno 14 anni anche per il semplice, anche per l'omicidio, che pure è l'epitome massima del crimine nel nostro codice. Com'è possibile questo? È possibile attraverso, e cerchiamo di leggerlo attraverso una ricostruzione, non temete, spero di non annoiarvi, vado veloce, una ricostruzione storica e una ricostruzione interna, per dir così, del reato. Quella storica è già stata accennata da Francesco e la si può fare, è un excursus molto breve. Nasce col codice Rocco, il 419 viene massimamente applicato in un momento del tutto particolare, cioè l'applicazione segue come sempre la giustizia di alcuni anni, ma i fatti a cui si applica sono le devastazioni e i saccheggi nei villaggi e nei quartieri lasciati vuoti per via degli sfollamenti, e si ha un notevole numero di sentenze che configura questo reato, perché dietro, per dir così, ai gravi fatti di danneggiamento e di furto, perché la devastazione è un grosso danneggiamento e il saccheggio è un grosso e plurimo furto, questo detto proprio in una parola e mezzo, no? Effettivamente erano fatti che non potevano e non dovevano passare impuniti, e torna comodo questo articolo 419. Peraltro non si arrivò mai a pene consistenti quanto quelle di cui stiamo discutendo qui, anche perché poi ci fu l'amnistia, eccetera, eccetera, e quindi la cosa si decongestionò. I processi furono tanti, ma la cosa si decongestionò abbastanza. Poi per un trentennio non se n'è più parlato. se non, l'ha già ricordato Francesco, per le due rivolte di, mi sembra, di Sassari e di Torino all'interno di due carceri. Teniamolo presente, siamo all'interno di carceri in cui rivolte assai preoccupanti vengono appunto colpite attraverso la devastazione e il saccheggio. Saccheggio lo si vedeva poco, le devastazioni certo comunque ci furono. Ciò che veniva messo in crisi era l'ordine pubblico all'interno del carcere, e solo all'interno del carcere, perché fuori nessuno sapeva neanche che cosa succedesse dentro al carcere. Allora teniamo presente, questo è fondamentale, capire come si sviluppa questa idea di messa in crisi dell'ordine pubblico. E poi dopo ci sono stati negli anni 90, nella seconda metà degli anni 90, il reato è stato ripescato per colpire i fatti dello stadio, no? Le proteste agli stadi. Plurimi processi anche lì sono venuti qualche anno dopo, comunque i fatti e la configurazione dei fatti, giuridica dei fatti, avviene attorno a quelle proteste di allora. Un processo è celebrato anche a Genova intorno a fatti avvenuti allo stadio di Marassi, e questo, come dire, dà lo spunto alla procura genovese per recuperare questo reato anche per i fatti del luglio 2001, nella stessa Genova, nella stessa città in cui si era sperimentato attorno ai fatti di stadio la tenuta, per dir così, di questo reato. Però se guardiamo bene, anche i fatti di stadio si congiungono in qualche modo ai fatti all'interno del carcere, cioè anche per i fatti di Marassi siamo di fronte a un'ipotesi in cui la protesta, perché la scintilla è sempre una scintilla di protesta, poi può essere le motivazioni possono essere 100.000, però anche in quel caso lì si assisteva a forme di protesta racchiuse, per dir così, o addirittura dentro allo stadio, così come avveniva dentro al carcere, o nella immediatezza, torno allo stadio. Difatti poi subentrò l'altra politica, quella dei tornelli, del non potersi avvicinare al luogo dove avrebbero potuto succedere degli scontri, o comunque dove l'ordine pubblico cosiddetto avrebbe potuto essere messo in crisi. Questi due precedenti in qualche modo hanno fatto sì che il reato fosse recuperato per Genova, proprio perché anche a Genova, con la politica della zona rossa, della zona gialla, in qualche modo si è avuta quella che Donatella sacrosantamente, molto efficacemente, ha chiamato la incapsulazione del dissenso. Non solo una incapsulazione sociale, che è sempre stato un modo di reagire al dissenso, modo politico, sociale di reagire al dissenso, ma anche una incapsulazione geografica, cioè il dissenso lo teniamo in una determinata zona della città e ci si misura in quella zona lì, non diventa un fatto sociale che coinvolge una intera città, un'intera comunità, ma si cerca di racchiuderlo. Era questo che intendevi dire per incapsulazione, no? Poi ho letto le tue cose, quindi mi sembra che, ecco, questo è stato il dato nuovo da Genova in poi, no? Perché quanto a anche scontri di strada, chiamiamoli così, ma gli anni 50, i primi anni 60, la fine degli anni 60, i 70, ha conosciuto forme di protesta molto, ma molto più ampie e anche spesso più radicali e anche spesso più violente di quanto non sia accaduto negli anni 2000. Teniamolo sempre presente. I morti, come dire, ai noi, ce li ricordiamo, furono anche molti di più in certi anni che non, per fortuna, da questo punto di vista, negli anni 2000. Proprio perché vi era anche questa politica di incapsulazione. In questa incapsulazione, e quindi nel riportare le forme di protesta, assimilare le forme di protesta a quel che può avvenire in uno stadio o a quel che può avvenire in un carcere, è stato ciò che ha fatto il revival del 419, della devastazione e saccheggio, in modo da modellare anche il reato su questa realtà, nel mentre che si modellava la realtà su alcune fattispecie, su un certo modo di intendere l'ordine pubblico. Se questo è in breve, o forse non abbastanza breve, non lo so, l'excursus storico, lasciatemi 5 minuti soltanto per quel che riguarda gli elementi interni e la pericolosità, per dire di questo modello penale che si esprime proprio in questo articolo. Innanzitutto, se questo articolo, al pari degli altri 9, tutela principalmente l'ordine pubblico e non la proprietà rispetto al furto o la proprietà rispetto al danneggiamento, ma l'ordine pubblico, bisogna intendersi su cosa si intende per ordine pubblico. Da qui, come dire, siamo già stato detto da 2, inutile che lo ripeta io, anche profili di possibile incostituzionalità. È stato portato una volta alla Corte Costituzionale, ma la Corte Costituzionale dicendo: beh, no, ma ormai è assodato che si intende il quieto vivere, che si intende la tranquillità, che è fondamento del consesso sociale, fondamento un fico secco, cioè la mia concezione della tranquillità non credo che sia la stessa concezione della tranquillità che ha la signora col cagnolino che non sopporta i rom sotto casa sua e cose di questo genere, no? Siamo indiscutibilmente, ma poi di per sé l'ordine pubblico è, come dire, un valore e quindi come tale è variabile a seconda dei parametri che si assumono. Non esiste un ordine pubblico unanimemente condiviso. Certo, si può essere, come dire, rispetto a certi momenti storici, si può condividere che ci sia una preoccupazione comune rispetto al vivere sociale. Però, per esempio, sulle soluzioni da dare per ottenere questa condivisione, sono certo che se ne possono enumerare 10.000, in cui le prime 5.000 sono contrapposte verticalmente alle seconde 5.000, per dir così. Ma non è questo l'unico, come dire, l'unica tara di questa ipotesi. È che nella costruzione che si è andata soprattutto sedimentando attraverso queste sentenze, che ripeto, per un trentennio non avevano fatto scalpore, perché finché si trattava degli assalti a, per esempio, alle scorte di viveri nell'Italia postbellica, era una conseguenza, per dir così, e poi, ripeto, fu anche mitigata da altri istituti. Però le cose non vanno più tanto nello stesso modo se l'applichiamo già ai fatti di stadio, ma soprattutto ai fatti di opposizione politica o comunque di manifestazione della propria opposizione da parte di gruppi sociali. Perché, per esempio, cosa si intende per ordine pubblico dal punto di vista della mappa, per dir così? Torniamo a Genova, pigliamo Genova. Sicuramente alcuni quartieri furono messi in subbuglio dalle manifestazioni, però altri quartieri di Genova continuarono la loro vita normalmente. E allora si pone il problema, come dire, quanto vasta deve essere il sovvertimento, la messa in crisi dell'ordine pubblico? Ecco. Si può, ma non basta. Naturalmente, a seconda di che ampiezza do all'ampiezza geografica di cui io fornisco la risposta, implica una configurazione o meno del reato. Ma non basta. È pacifico, secondo alcuni, secondo me affatto, che non occorre affatto che l'ordine pubblico sia messo in crisi. Basta il pericolo di messa in crisi dell'ordine pubblico. Secondo le sentenze è un tipico reato di pericolo, quindi basta che in prospettiva possa essere messo in crisi l'ordine pubblico. Non occorre che ci sia il sovvertimento più ampio, meno ampio, non importa, di un determinato ordine che la maggioranza ritiene giusto appunto ordine, magari la minoranza ritiene semplicemente lesione dei propri diritti. Ma non basta. Bisogna che chi agisce in questo contesto abbia oppur no coscienza di ciò che sta facendo. E anche qua introduco, cerco di schematizzare concetti molto complessi su cui ci sono articoli, articoloni, volumi e così via, ma ahimè è abbastanza pacifico ed è stato convalidato anche nella sentenza di Genova contro i manifestanti, che non occorre che la volontà sia quella di mettere in crisi l'ordine pubblico. Basta la volontà di devastare, di saccheggiare, che obiettivamente si incorre anche nella messa in crisi o nella possibile messa in crisi dell'ordine pubblico, che però si equivalgono. Ma ancor di più occorre una partecipazione materiale di tutti, o comunque di coloro che sono incriminati, ai fatti di messa in crisi dell'ordine pubblico attraverso la devastazione e il saccheggio? No, basta il concorso morale. Quindi basta che, per dir così, con la pura e semplice presenza si avalli, si sia d'accordo, non si prenda le distanze da ciò che altri stanno facendo, anche se io non faccio nulla. E difatti fra quei 10 ce ne sono ben 2 che è riconosciuto dalla stessa, a suo tempo dall'accusa e poi dalle sentenze, che concretamente non hanno partecipato alle azioni. Come dicevamo noi, passavano di lì per caso, o comunque è difficile andare a indagare se volevano partecipare, soprattutto se volevano mettere in crisi quell'ordine pubblico. Ecco, questo progressivo ampliamento dell'ambito del reato, purtroppo, Eligio, non dico cose sbagliate, consolidato in una giurisprudenza che forse aveva il suo senso, perché era molto difficile che chi andava a saccheggiare un intero villaggio in quel di Benevento, perché i fatti successero soprattutto in provincia di Benevento, non avesse la consapevolezza che saccheggiava. Ma chi a Genova, e noi c'eravamo, e chi c'era se lo ricorda, io ero in piazza da Novi nel momento in cui qualcuno stava tirando su i sassi per poi lanciarli, e poi ho seguito tutto quel che succedeva, detto in 2 parole. Beh, meno male che al PM non gli è venuto in mente di riconoscermi in qualche foto, perché altrimenti, come dire, io certamente ero lì, né potevo dissociarmi, non c'era nulla da dissociarsi, che devo andare a dire no, guarda, possibilmente in tedesco, perché erano quasi tutti tedeschi, non è il caso, lascia stare, no. E allora, però, se io assumo il canone della partecipazione morale, quindi della non dissociazione, ecco che le cose si ampliano, così come ai noi si sono ampliate per questi 10 giovani che hanno riportato le condanne. E allora, appunto, stiamo attenti. Io credo che prima o poi, in uno di questi processi a Genova, non avevamo ancora messo a fuoco bene questo tema di questo reato, dice colpa vostra, non avevate studiato abbastanza, ma c'è sempre, sì, no, ma poi c'è sempre, come dire, un momento in cui uno deve riflettere sulle sentenze altrui per individuare una strategia. Il reato va o cancellato o portato davanti alla Consulta, non c'è versi. È un tipico reato atipico, vale a dire che va contro i principi di tassatività del nostro diritto penale, per cui ognuno deve rispondere di ciò che è già stato prestabilito, che si è con chiarezza, che costituisce reato e deve essere chiamato a rispondere secondo, per dir così, criteri condivisi. Qua di condiviso non c'è nulla, non c'è il criterio dell'ordine pubblico, non c'è il criterio della partecipazione e così via. Quindi io credo che meriterebbe portarlo alla Consulta quando, ai noi, ormai molto spesso viene dai PM invocato anche per semplici manifestazioni che non hanno avuto la portata, non hanno e non hanno avuto la portata di Genova. Questa potrebbe essere una strategia, per dir così, perché non credo che di queste lune il legislatore si metta a riscrivere né il codice né tantomeno l'articolo 419, anzi se lo riscrivesse lo peggiorerebbe, quindi proviamo a andare alla Consulta. Ecco, questo è lo stato dell'arte, per dir così, e spero di aver chiarito qualche punto. Grazie. Beh, diciamo che come campagna 10%, proprio quel 13 luglio, abbiamo consegnato all'allora presidente della Cassazione Lupi le 30.000 firme proprio che richiedevano l'eliminazione del reato di devastazione e saccheggio nel codice penale, proprio perché anche secondo noi, insomma, è un reato che sempre con più facilità viene allargato. Il 15 ottobre ne è un emblema, in cui l'incapsulamento dove sta? In una piazza unica, l'ordine pubblico in una piazza deserta dove viene sovvertito. Che vuol dire il quieto vivere di una cioè, nel senso che tante sono, e secondo me appunto proprio sul processo del 15 ottobre, dove anche le intenzioni, nonché anziché condannare per i singoli fatti di danneggiamento, penso alla camionetta della polizia, eccetera, appunto sempre di più, addirittura viene dato, insomma, si sta cercando di darlo per proprio processo alle intenzioni, per cui io partecipo e in quanto partecipo aderisco al concetto di devastazione e saccheggio. E sul 15 ottobre, secondo me, insomma, si tende sempre di più ad allargare questo, questi si attende. Sì, è un processo. Radio Onda Rossa. Sarebbe, dico, siccome proprio quello è un processo. State ascoltando la diretta dal Teatro Valle Occupato. Appunto, si assiste del convegno Libertà di Conflitto. Incredibile ampliamento. Potrebbe essere una strategia quella di cercare di portare alla Consulta la norma e vedere di abbatterla o comunque di riscriverla. Se, come diciamo noi giuristi, e mi riferisco al discorso che ho fatto prima, si passasse dal dolo generico al dolo specifico, già sarebbe un passo avanti, sia ben chiaro. Vabbè, qua siamo nelle minuzie. Allora, prima di lasciare la parola a Italo, dell'Osservatorio sulla Repressione, Giorgio voleva intervenire, la passo il microfono. Beh, rapidamente, proprio per sia per dare spazio agli altri interventi, sia perché la nostra intenzione, il nostro compito proprio come Radio Onda Rossa, non solo per quanto riguarda sia Genova sia il 15 ottobre, è stato quello di mandarli in diretta, possiamo dire, perché anche a Genova le corrispondenze, i fili diretti sono stati numerosissimi, così come altrettanto è successo il 15 ottobre del 2011 per quella manifestazione a Roma. Ora qui di argomenti interessanti ne sono stati tirati fuori parecchi. Il punto che ci premeva sottolineare è soprattutto un punto di vista politico, e che dia non tanto l'interpretazione definitiva né una spiegazione migliore di quanto i singoli relatori hanno dato ciascuno nel loro campo, quanto perlomeno l'opinione di chi, la riflessione di chi è in qualche modo un terminale di queste, un terminale molto sensibile dei movimenti, dei conflitti, eccetera. E per cui a partire dal titolo Libertà di conflitto, noi vogliamo ancora sottolineare quanto questa situazione riguardo alle condanne di Genova e alle imputazioni, per ora sono imputazioni, del 15 ottobre 2011 sia anticipatorio di qualcosa di più grande, più vasto, che si va comunque delineando, in cui i sintomi ci stanno, perché vediamo soprattutto un riflesso d'ordine che proprio si allarga, no? Viene da soggetti anche che, da cui non ce lo saremmo aspettato, perlomeno che farebbero meglio in alcune circostanze a tacere. Penso, non so, al sindaco, e non parlo certamente della Lega o di formazioni di destra conservatrici, di cui certi commenti o certe prese di posizione potrebbero essere scontate. E qui c'è una persona attenta, insomma, che viene da, tra l'altro, un avvocato, mi sembra, Pisapia, che è sindaco di Milano, che, insomma, dopo un fatto specifico di un'uccisione di tre persone ha in qualche modo evocato l'intervento dell'esercito. È un giudice, un ex giudice, Felice Casson, che sempre a proposito dello stesso episodio ha ribadito un punto di vista di un senatore del PDL che diceva: io avrei sparato a quella persona, e Casson ci ha tenuto a ribadire che anche lui avrebbe fatto lo stesso. Cioè, a parte la domanda semplice, dice: ma perché non vi state zitti in certe circostanze invece di dire, di fare queste esternazioni? È proprio il sintomo che anche persone di questo tipo e persone che vengono da una storia di sinistra sentano questo bisogno di esprimersi in questi termini, no? Di intervenire sull'ordine pubblico, perché poi di questo parliamo, quindi quest'ordine pubblico che genera a sua volta anche in elementi di cui non ce l'aspetteremmo, appunto, un riflesso d'ordine, quasi una reazione pavloviana. Succede questo, la reazione è questa, che va sempre in un'unica direzione. E qui si è parlato anche dell'uso politico. Ecco, sull'uso politico qualcosa va detto del codice penale, insomma, che non è soltanto così come elegantemente è stato descritto, è qualcosa di più brutale e di feroce. Noi dobbiamo fare i conti con questa ferocia del potere, anche se Resta l'ha definito un potere stupido. E sarà anche stupido, ma estremamente feroce, perché quando riesce ad applicare un reato come devastazione a saccheggio per incidenti commessi nell'arco di una giornata o di due giorni a Genova, o nell'arco di poche ore, di alcune ore, come il 15 ottobre del 2011, è difficile poi non pensare che, se uno deve avere un'immagine della devastazione, non pensare per esempio a una città come Taranto, che è letteralmente devastata, ma non perché ci sono le macchine ammonticchiate o i palazzi crollano, è devastata da anni di una, per esempio, politica industriale precisa, in cui la gente non manda fuori i suoi figli o non esce di casa, non perché c'è la manifestazione come a Genova perché ha paura dell'ordine pubblico, ma perché si rischia la vita. E questo però non viene né percepito né rappresentato né esaminato e quindi condannato come una devastazione, ma sicuramente è un'immagine molto più vera, molto più forte di quella, molto più realistica e corrispondente. Come lo stesso il saccheggio. Che idea di saccheggio, insomma, rubare i prosciutti in una norcineria o rompere un bancomat, quando, insomma, qui gli ultimi scandali regionali ci hanno dato un'idea di saccheggio della cosa pubblica che è infinitamente, tra l'altro, di una fantasia incredibile che nessuno sarebbe riuscito a immaginare con l'uso di fondi pubblici. Ecco, tutte queste cose non ci stanno, quindi mentre invece all'interno del codice penale e l'uso che viene fatto del codice penale, questo sì è chiaramente estremamente politico, ma ripeto, se un potere, come dice Resta, a cui bisognerebbe, stupido, che non sa rispondere a queste cose, a cui viceversa l'invito era bisognerebbe avere un atteggiamento quasi gandiano, e questo è veramente difficile, perché di fronte a queste cose è difficile essere gandiani, insomma. E quindi capire anche le ragioni di chi si ribella, ma non tanto per un ribellismo generale, perché sono anni che si va avanti su questa strada ed è, io credo, anche difficile invocare la società civile da questo punto di vista, perché la società civile non riesce a entrare a sua volta in conflitto con questo stato di cose. E io non credo nemmeno che quello che si è verificato a Genova, come diceva Della Porta, l'incapsulamento del diritto, le zone rosse, queste cose qui, sia esemplificativo o esauriente per dare una spiegazione. Io credo che già da Genova, già Genova era rappresentato il mondo intero, poi passiamo viceversa magari al 15 ottobre dove c'è non la somma dei governi o degli stati mondiali, ma c'è solo il governo italiano. In entrambi i casi io vedo già dei sintomi di debolezza, cioè il potere a Genova, in quel caso il potere mondiale, globale, risponde perché è debole di fronte ai movimenti, perché non ha ragioni da controbattere a questi movimenti. E alla lunga, a distanza di 10 anni, le ragioni dei movimenti, anche se non si sono affermate ma sono state universalmente riconosciute, cioè l'incapacità di questi signori di governare il mondo così come era già palese in quel momento. E tipicamente, cioè, io farei questa riflessione, mi spiace insomma che la facciamo comunque tra di noi, riflettere anche su queste debolezze, cioè che su questa crisi costante di legittimazione, di credibilità, questa crisi della democrazia, così nella sua interezza, dell'ordinamento democratico, di tutte le sue istituzioni, di tutte le sue componenti, produce un riflesso d'ordine, produce una risposta d'ordine, proprio perché debole politicamente, proprio perché incapace e di governare la crisi, quella globale, come il G8 ha dimostrato, e quindi reagisce con la forza bruta, così come si reagisce altrettanto brutalmente di fronte a movimenti che, questo per fortuna è stato ricordato, sono estremamente meno violenti di quello che si ebbe negli anni 70 o comunque negli anni precedenti. Su cui tra l'altro però va sottolineato che lì si davano i reati associativi, si cercava di combatterli con i reati associativi, mentre invece oggi con molta più facilità e con molta più speditezza pratica proprio un solo reato, devastazione e saccheggio, indimostrabile ma nello stesso tempo applicabile, questa proprio la un paradosso per un verso, ma diciamo una grande magia che riescono a fare i giudici, che, su cui qualche parola in più magari andrebbe anche spesa per le loro responsabilità, e riescono ad appiopparti 8 anni, cioè io per dimostrare che tu sei un'associazione sovversiva, tra l'altro non arrivo a darti 8 anni ma ci impiego anche un bel po' di tempo e spesso non ci riesco, come è successo, per cui questi processi andavano per le lunghe, ma le conclusioni come condanne poi non sono state così tante rispetto al numero delle imputazioni. Molto più facile darti un singolo reato che tra l'altro ha una capacità enorme intimidatoria, proprio preventiva da questo punto di vista, perché ti becchi 8 anni di galera per non aver commesso niente di paragonabile a quello che viene commesso continuamente come danno complessivo alla società e quindi a quell'idea di ordine pubblico che veniva riportata anche nella sentenza della Cassazione. Per cui per non sottrarre ulteriore tempo, l'appunto che ci premeva proprio sottolineare è che sta nel titolo Libertà di conflitto, è quella proprio di uscire anche dall'ambito specifico delle manifestazioni e fare in modo che questi compagni e compagne che oggi sono in galera o che sono imputati diventino nomi, conoscenze, fattispecie, momenti, situazioni a conoscenza anche al di fuori dell'ambito stretto di una certa militanza, di come possiamo intenderla, di come si esprimono oggi questi movimenti, perché appunto sono anticipazioni di qualcosa che si sta anche allargando e sta coinvolgendo anche il mondo del lavoro o comunque le ultime proposte, per esempio della Lega, ma non solo della Lega, di inasprire le pene per le occupazioni o quella di inasprire, visto che era stato depenalizzato il blocco stradale, ma io ci metto anche, se me lo consentite, il fatto che i sindacati CGL, CISL e UIL hanno fatto un patto, hanno firmato un accordo in cui si va a ledere anche il diritto di sciopero, in virtù del fatto che se un contratto è firmato poi insomma non puoi più scioperare, detto molto sinteticamente, poi la cosa è più articolata ma la sostanza è questa. E allora tutto questo insieme di cose dà sì il senso veramente di questa debolezza complessiva, di questa non credibilità complessiva, a cui non si può opporre né magnanimità né condiscendenza né diciamo compassione. Non si può aver compassione di questi signori che ci hanno veramente portato in questa situazione e che l'unica cosa che riescono a fare è poi difendersi o con il manganello per strada o con gli articoli di codice come il 419. È chiaro allora la sollecitazione anche al di fuori di quello che è l'area dei movimenti di farne veramente una battaglia politica generale che riesca a toccare tutti gli ambiti di questa società. Lei chiamerei Italo Di Sabato, osservatorio sulla repressione, perché oltre al reato di devastazione e saccheggio in questi ultimi anni, diciamo così, tanti sono stati le misure cautelari, piccoli altri piccoli, che poi insomma piccoli non so, perché anche per una resistenza qua adesso si prendono 3-4 anni, insomma. Il 14 dicembre insomma ce l'ha dimostrato, mi ricordo insomma il 14 dicembre un ragazzo che è stato trovato per strada con una cinta in mano, è stato fermato e mi ricordo insomma lo raccontò pure la radio eccetera, e che gli fu chiesto come mai girava con questa cinta e lui rispose stavo qui, c'era tutto questo anche per difendere, insomma gli hanno dato quasi 3 anni. Ma grazie all'invito. Ma dicevamo, da Genova 2001 ad oggi c'è un tentativo da parte della magistratura, della procura, di criminalizzare qualsiasi lotta sociale. Da nostro lavoro, nostra ricerca, contiamo che quasi 17.000 a tutt'oggi sono i procedimenti penali contro compagni ma anche semplici cittadini, procedimenti penali che vanno da le giornate di Genova al 15 ottobre al 14 dicembre, ma anche battaglie fatte da lavoratori e lavoratrici, difesa di un posto di lavoro, da precari, battaglie contro i CIE, mobilitazioni studentesche, le lotte sociali e delle vertenze territoriali, ad esempio in Campania contro le discariche, e quelle dei cittadini della Notav, in cui per esempio sulla Notav c'è anche un nuovo paradigma di come si intende ormai utilizzare tutti gli elementi dell'emergenzialismo su quella lotta sociale e lotta territoriale. Pensiamo ad esempio che uno dei processi iniziati si sta facendo dentro l'aula bunker. Pensiamo ad esempio che dei compagni arrestati lo scorso anno hanno subito un trattamento di carcerazione preventiva in ordinamento speciale, a molti proprio in ordinamento di 41 bis. Ecco, credo che su queste cose tutto quello che è stato detto finora apre un fronte ampio di riflessione che deve vedere tutti i gangli dei movimenti organizzarsi e vedere come reagire. Ecco, noi partiamo da Genova. Ecco, Genova, si diceva, è stato quello che ha riaperto la strada in termini politici all'uso del reato di devastazione e saccheggio, e abbiamo queste 10 condanne, e per fortuna noi su tutto il filone di Genova abbiamo avuto le assoluzioni sul famoso teorema Fiordalisi e del processo iniziato a Cosenza, così come dicevamo abbiamo il 14 dicembre e il 15 ottobre. In più abbiamo che oltre a questo, alla devastazione, al saccheggio, quindi al riassumare il codice Rocco, abbiamo altre forme che vengono sempre più inserite anche all'interno di condanne già fatte in questi ultimi anni. Ad esempio il ricorso ai risarcimenti. È sempre più frequente che il condannato viene condannato anche a risarcimenti, e molte volte risarcimenti anche milionari. La costituzione di parte civile, non solo da parte di singoli poliziotti o singoli appartenenti ai forze dell'ordine, ma peggio ancora da parte del governo e dello Stato. Pensiamo al processo contro la Notav. Il governo Monti si è costituito parte civile contro i cittadini della Notav, contro i cittadini della Valsusa. Anche il 15 ottobre. Però nei processi di Diaz e Bolzaneto invece è dalla parte dei poliziotti. Così come, lo diceva Giorgio adesso, insomma, si tenta di non solo inasprire, ma di fare nuove forme anche di legislazione speciale. Il blocco, cioè l'equiparamento, ad esempio, della proposta di legge presentata dai deputati del PDL e firmata anche dal deputato del PD Esposito, di equiparare il blocco stradale a sequestro di persona. L'inasprimento delle pene per l'occupazione delle case, il DASPO per i manifestanti, o l'ultima proposta di questi giorni, l'arresto per le contestazioni a comizi e manifestazioni pubbliche. Io credo che queste nuove forme, ecco, di leggi emergenzialistiche speciali dimostrano, ecco, il disegno repressivo e neautoritario in cui lo Stato e i governi vogliono attuare contro quello che è il dissenso sociale, sono le lotte in questo paese. Allora io vengo qui a una proposta, insomma, che credo che su questo serve che avviamo delle campagne politiche, e io credo che così come vada rafforzata e ripresa la campagna fatta con le 30.000 firme per l'abrogazione del codice Rocco, io credo di devastazione e saccheggio allargherei ecco partiamo dal reato di devastazione e saccheggio. Io credo che sia necessario e non più rinviabile aprire anche una campagna politica per l'amnistia per i reati politici e sociali. Io credo che sia fortemente d'attualità, insomma, questa battaglia, perché anche perché le amnistie in questi anni, in questo paese, sono più di 40 anni che non vengono applicati per i reati politici. Le ultime due amnistie, se non sbaglio, furono fatte nel 68 e nel 70. Poi, le amnistie in generale? No, sui reati politici. Sui reati politici e sociali, se non sbaglio, sono 68 e 70, insomma. Le successive sono state generalizzate, non erano mirate. Quindi io credo che questa è una campagna politica, perché credo che noi dobbiamo, quando noi parliamo di Genova, dobbiamo necessariamente fare i conti non solo su quello che è oggi le leggi e le azioni presenti nel nostro paese, ma dobbiamo fare i conti anche su quello che è stata le norme inserite nella costruzione della cosiddetta Fortezza Europa. Perché pensiamo al mandato di arresto europeo, che difatti rende possibile automatico l'estradizione da qualsiasi paese. Pensiamo alla direttiva europea di estendere la nozione di terrorismo, e pensiamo che cosa già è successo in questo paese, per esempio a riguardo i baschi o a riguardo i curdi, quello che succede anche nel nostro paese a riguardo, ecco, l'estensione della nozione del terrorismo voluta dalle direttive europee. Ecco, io credo che su questa cosa qui ormai è sempre più ampia l'idea di una repressione ampia e diffusa su qualsiasi forma, non solo di dissenso, ma qualsiasi forma di organizzazione di conflitto. A questo, dicevo, sempre sulle norme europee, basti pensare ad esempio che dentro il Trattato di Lisbona viene prevista anche l'arresto preventivo, cosa già attuata ad esempio a Francoforte e Bruxelles durante le manifestazioni europee degli ultimi mesi. Quindi noi dobbiamo fare i conti ora, quindi non solo con quello che è l'attualità dei processi repressivi nel nostro paese, ma anche su quello che ulteriormente la costruzione di questa fortezza Europa, che tende di escludere sempre più i diritti di cittadinanza e far sì sempre che diventa sempre un lager molto più largo i confini di movimento e di azione. Allora, io chiudo, io credo, e su questo vorremmo lanciare questa proposta qui, di lavorare nei prossimi mesi affinché la solidarietà concreta e attiva verso le compagne e i compagni che in questo momento sono dentro le carceri e pagano il prezzo delle condanne così assurde e infami che hanno subito, di lanciare questa campagna per l'amnistia per i reati politici e sociali e per l'abrogazione delle norme contenente nel codice Rocco a partire dalla devastazione e saccheggio. Credo e vorremmo lanciarla anche con una data simbolica, che questa campagna, che deve essere costruita, fatta lievitare nei territori, nelle realtà di movimento, possa avere come lancio il 20 di luglio a Genova, che è una data simbolica e una giornata importante in cui possa diventare anche una campagna di massa e di aggregazione sociale al nostro paese. Prima di passare la parola all'avvocata Simonetta Crisci, che voleva intervenire, non so se il supporto legale vuole dire qualcosa, può venire qui. C'era l'avvocato Romeo che voleva... No, Simonetta, allora vieni. Supporto legale, se vogliono. Scusate, questa giornata è stata voluta proprio per aiutare quei compagni che sono stati condannati nel processo cosiddetto dei 25, che poi sono diventati 10, e che di cui vi porto il saluto di alcuni di loro, e vi do notizia che alla compagna di Messina, che il Tribunale di Sorveglianza di Genova l'altro giorno ha concesso la detenzione domiciliare invece che il carcere. E c'è un saluto pure che vi porto dal compagno che difendo e che è detenuto nel carcere di Perugia. E volevo mettere in evidenza che rispetto a questi reati per i quali noi siamo intervenuti come avvocati sia durante tutte le fasi di Genova, sia durante le manifestazioni e dopo le conseguenze giuridiche delle manifestazioni tenute in tutta Italia e soprattutto qui a Roma per il 14 dicembre, per il 15 ottobre, dove una cosa è stata fatta importante sulla quale io mi batto da anni, che è quella dell'aggregazione degli avvocati che sono destinati in questi processi a fare le difese. Questa cosa ha avuto un suo risultato nell'ultima udienza del giudice delle indagini preliminari, dove eravamo diversi avvocati per la difesa dei compagni arrestati il 15 ottobre, si è ottenuto il proscioglimento, cosa rarissima nell'udienza preliminare dove si raccolgono le prove utili per l'accusa per portarle al tribunale, cosa rarissima avere dei proscioglimenti in quella sede. Abbiamo ottenuto 7 proscioglimenti sui 25. Sono proscioglimenti che hanno significato che gli avvocati hanno lavorato bene in unione tra loro, anche con quelli che non si conoscevano prima, e perché è questo l'unico modo per poter concordare le difese, cercare di individuare i punti deboli dell'accusa e individuare invece quelle che sono le risorse che noi possiamo portare nelle difese. Questo si unisce, questo intento che comincia a dare dei frutti, si unisce anche alla pratica che abbiamo portato avanti per anni, che è quella di stare in piazza e di cercare di garantire che vengano garantiti quei diritti per i quali si va in piazza a manifestare. Su questo volevo dire una cosa che recentemente mi ha colpito. La richiesta da parte di appartenenti al PD, in particolare la Finocchiaro, dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che vorrebbe l'irrigimentazione dei partiti politici facendo leva sul fatto che quell'articolo della Costituzione garantisce ai cittadini la possibilità di fare politica, è un attacco fortissimo ai movimenti e a tutti coloro che fanno politica manifestando nelle piazze, associandosi come cittadini, associandosi come persone che hanno da rivendicare dei diritti, perché la nostra Costituzione prevede all'articolo 18 la possibilità per tutti i cittadini di associarsi e di rivendicare e di portare in piazza le proprie rivendicazioni. L'articolo 49 invece, che vogliono che venga attuato e che in passato non si è mai cercato di attuare da parte proprio dei partiti e dei sindacati, perché dà delle linee di irregimentazione del partito e solo i partiti potranno partecipare alle manifestazioni, alla partecipazione politica all'interno del Parlamento. Che cosa significa questo? Che questo è un articolo che era stato voluto da quella parte della Costituente, che era la parte che voleva delimitare la partecipazione ai cittadini, mentre l'articolo 18 era stato conquistato, diciamo, perché essendo molto più ampio e dando la possibilità di partecipare a più cittadini, che è il fenomeno che oggi si sta realizzando, quella che i cittadini che vogliono fare una rivendicazione, che vogliono opporsi a delle imposizioni dello Stato, si riuniscono senza dover essere irregimentati, avere delle regole precise, ma con la propria volontà di combattere, di conquistare dei diritti, oggi vorrebbero che non ci fossero, perché devono essere solo i partiti e i sindacati stabiliti dalla legge quelli che possono fare attività politica. È una cosa gravissima che si va in questa cornice di repressione, accolta anche dai partiti cosiddetti della sinistra o del centrosinistra o anche di SEL, che gli sta benissimo che si può irregimentare, così lui è uno dei partiti che sta all'interno di quella regola, per cui loro non hanno nessun disagio. Il disagio è sempre di chi fa le lotte, di chi non accetta di essere regolamentato anche nella sua espressione di libertà di parola e di conquista dei diritti. E allora qui si inserisce, per venire a noi come avvocati, che il ruolo degli avvocati nella società non deve essere quello della difesa del singolo e dei diritti del singolo, soprattutto nel penale, che è un rapporto tra il cittadino e lo Stato. Nelle cause penali è il cittadino che viene accusato dallo Stato nei propri sentimenti politici e di rivendicazione, e noi avvocati dobbiamo avere questo ruolo e continuiamo ad ampliare queste nostre associazioni come il Legal Team, che deve avere il ruolo di difesa dei diritti dei cittadini che manifestano, dei diritti dei cittadini che rivendicano la propria autonomia anche rispetto allo Stato. Allora, chiamerei supporto legale, perché diciamo che è una parte poi importante, parallela a quella che è il lavoro degli avvocati, e quello poi del sostegno, molte volte economico, perché anche questo necessita, visto che insomma gli imputati poi devono non soltanto pagare spese processuali eccetera, ma essendo in carcere anche le famiglie hanno degli abbassamenti delle entrate finanziarie, economiche. Questo è avvenuto per Genova con la creazione di supporto legale, sta avvenendo come supporto anche per quanto riguarda il 15 ottobre, e poi insomma casomai il 15 ottobre parlerò dopo, però intanto la parola a te. Sì, a parte sarebbe ora di, cioè, prima o poi dovrebbe arrivare il momento che non servono più tutti. Questo probabilmente doveva essere un convegno che andava fatto una decina d'anni fa, lo stiamo facendo nel 2013, va bene, ci siamo arrivati, abbiamo i nostri tempi un po' lenti, mentre dall'altra parte il potere, che è stato giudicato stupido, che è stupido però è anche cattivo, e in questi 12 anni si è riorganizzato e sistematicamente ha chiuso le gabbie intorno a noi, le ha fatte sempre più strette. La considerazione che faccio è che un giorno andrebbe riraccontato il processo ai 25, perché ho la sensazione, e magari poi Simonetta qui la coinvolgo, che se il processo ai 25 fosse cominciato oggi o un anno fa, di quei 25 in carcere o condannati ne avremmo 25. E lo spiego rapidamente anche perché capirci. Come supporto legale, noi negli anni tra il 2003 e il 2009 abbiamo tentato di fare un discorso di difesa che fosse sì politica, ma fosse politica orizzontale per tutti e 25 gli imputati, senza dividere i 25 che erano divisi come imputazioni, perché 15 furono fermati, identificati per gli scontri di via Tolemaide, e gli altri 10 che poi sono stati successivamente condannati erano quelli tra virgolette che la Corte di Giustizia ha giudicato del blocco nero, comunque 10 individui presi sparsi in diversi appunto in diverse zone di Genova per dei fatti successi in diversi punti di Genova. Noi negli anni abbiamo cercato di fare appunto un discorso che fosse orizzontale, tutti e 25 sono nostri, non facciamo distinzioni, mentre politicamente invece c'è chi l'ha fatta distinzioni, tanto che quando arrivò la prima sentenza intorno al 2008, il processo d'appello intorno al 2009 che tirava fuori 15 persone, ossia quelli per gli scontri di via Tolemaide, perché fu riconosciuto il cosiddetto diritto di resistenza, qualcuno esultò, facciamo anche i nomi perché poi tranquillamente questo non è un processo politico, però raccontiamolo e diciamo perché poi è interessante andare a vedere questi passaggi, fu il signor Casarini che appunto felice di questo riconoscimento del diritto di resistenza, in qualche modo lui stesso fece una nuova distinzione, no, noi siamo stati quelli che si scontravano per un motivo, dall'altra parte c'era gente che non si scontrava non si sa per quale motivo, ovvio che la sentenza in quel caso fu molto politica, però qualcuno all'epoca disse sì, attenzione che oggi vi hanno riconosciuto il diritto di resistenza, non è detto che dopo domani questo stesso diritto venga riconosciuto, perché poi sistematicamente si spostano sempre i confini, e io ho la sensazione, poi magari qualcuno qui di chi che ci capisce più di me può confermarlo o no, che se questo processo ai 25 fosse cominciato quest'anno, un anno fa, due anni fa, forse saremmo arrivati a 25 condannati. Lo dico semplicemente perché in questi anni abbiamo perso sistematicamente occasioni per fare un ragionamento che fosse collettivo, che non fosse sempre in qualche modo che arrivasse dopo le condanne, gli arresti o quantomeno le denunce, ma che fosse antecedente. Io poi adesso non voglio dire che avremmo dovuto fare anche un discorso su come si sta in piazza eccetera eccetera, perché poi questo qua è un passaggio ulteriore, però è vero che il processo di Genova ha fatto da apripista, tanto quanto alcuni elementi negli anni ce l'avevamo avuti, le prime condanne per devastazione e saccheggio, che altro campanello d'allarme, furono tra il 2003 e il 2005. All'epoca non furono condannati compagni o per scontri di piazza, ma per un paio di fatti di stadio, se non sbaglio degli scontri avvenuti all'interno della stazione Termini tra ultras e polizia, e l'altro per gli scontri ad Avellino durante un Avellino Napoli dopo la morte di un tifoso. Parliamo tra il 2003 e il 2005, poi magari mi posso sbagliare di un anno o due. Un altro campanello d'allarme, ma nuovamente anche qui col fatto che non ci coinvolgevano direttamente, erano la feccia da stadio, in qualche modo pensavamo che tutto questo non ci coinvolgesse, invece poi nel 2007 e poi nel 2009 qualcosa invece d'altro è successo che ora ci troviamo comunque con 10 persone, di cui 2 in carcere. Supporto legale, attraverso il sito supportolegale.org, si è ritrovato a settembre-ottobre dello scorso anno in qualche modo a dire non a lavorare, ma a fare un po' da punto di raccolta per chi volesse sottoscrivere, perché non sembra, non se ne parla più, ma ci sono 2 persone che hanno bisogno proprio di un supporto economico perché si trovano in carcere, ci sono anche delle famiglie che hanno bisogno di un supporto economico, soprattutto le famiglie di chi si trova in carcere, e sono sempre qualche centinaio d'euro, e poi ci sarà il passaggio prima o poi che arriveranno, ossia i cosiddetti risarcimenti, o chiamiamoli così, non si sa quello che cosa succederà, però probabile che Le persone condannate dovranno anche pagare qualche decina di migliaia di euro, come è successo. Ricordiamoci che per molto meno due compagni di Milano, anzi un compagno di Milano, si è trovato per l'aggressione all'ospedale San Paolo dopo la morte di Dax, condannato con 130.000 euro da ripagare allo Stato. Perché poi tutto questo nel Bairam, nelle mille cose che succedono a noi, ai compagni, a chi ci sta più vicino e chi ci sta meno vicino, poi accadono. C'è Brega, un compagno di Milano, che da circa 3 anni ha un quinto dello stipendio che viene trattenuto dallo Stato, perché lui deve allo Stato 130.000 euro dopo che è stato picchiato, aggredito la notte stessa della morte di Dax. Questo per dire, perché noi da un rapido calcolo come supporto legale abbiamo pensato che c'è il rischio che qui si vada oltre le 150.000 euro di conto totale quando si chiuderà definitivamente il processo. Attualmente la situazione è che in un anno saranno arrivate credo una tra i 10-15.000 euro che sono stati in qualche modo appunto mensilmente dato a chi si trova detenuto, insieme al grazie alle varie iniziative e le sottoscrizioni individuali fatte. Però ovviamente questo non è abbastanza, non soddisfa tutto. Oltretutto non sono soltanto loro 10, anzi in questo caso parliamo di due persone soprattutto su cui siamo concentrati a ritrovarsi detenute, perché poi c'è stato il 15 ottobre, ci stanno varie iniziative di solidarietà, perché poi alla fine i detenuti e le detenute non sono pochi tanto quanto le persone denunciate che si trovano in questo momento sotto processo. Comunque il sito è supportolegale.org e poi ci ritroveremo a parlare. Però volevo raccontare il processo 25, perché credo che poi il cosiddetto che ha visto poi la condanna di 10 persone sia un po' un processo che vada nuovamente riraccontato, perché ha tanto da insegnare soprattutto a chi fa movimento e soprattutto a chi fa movimento e pensava di poter essere immune al carcere perché aveva una cosiddetta posizione politica che lo rendeva immune. Grazie. Invece per quanto riguarda il 15 ottobre, per chi volesse sottoscrivere, che la solidarietà passa anche attraverso questo, c'è il conto corrente postale della radio 61 80 40 01, proprio con la causale 15 ottobre. Comunque poi sui vari siti, anche sulla rete Evasione, potete trovare tutte le indicazioni. Io, se c'è qualcuna che vuole fare delle domande da platea, se no ripasserei la parola all'avvocato Romeo. Per chiudere la serata direi che oggi è stato forse un passaggio importante, perché ecco, se misuriamo la distanza che ci separa dallo scorso anno, intanto stasera ci siamo trovati a parlare con esponenti diciamo dell'università e abbiamo trovato anche un pensiero, dei germi, dei semi di pensiero critico che dobbiamo far sviluppare. La campagna sull'amnistia è un passaggio forse ineludibile, diciamo, che qui richiamava l'osservatore sulla repressione. E c'è già un esempio: in Francia una legge è già stata approvata per l'amnistia sui reati di carattere sociale. E forse un esempio storico possiamo prendere dal nostro passato, la legge di amnistia del 1970, che era, diciamo, che l'atto di amnistia, la legge di amnistia tra virgolette politica che c'è stata nel nostro paese in epoca repubblicana. Tant'è vero che quell'amnistia del 1970 riguardava straordinariamente ed eccezionalmente anche i reati di devastazione e saccheggio. Penso sia un passaggio difficile da replicare, però ecco, c'è un precedente storico da cui poter partire. Quello che rimane da fare è tanto, e però io credo si debba sviluppare su due diverse linee. Da una parte c'è il lavoro, diciamo, tecnico, il lavoro giuridico che tocca agli avvocati, che va sviluppato in un lavoro di elaborazione critica, di un pensiero che sia di un pensiero giuridico critico che abbia come punto di svolta l'abbandono dell'ideologia del codice Rocco, intanto. E su questo altri incontri di questo tipo potranno seguire con altri e con questi stessi esponenti, diciamo, dell'Accademia, dell'Università. E dall'altro canto c'è il lavoro del movimento che deve, come dire, dare corpo e forma politica a questa linea di pensiero critico all'esterno. Non possiamo stare e rimanere confinati nelle aule dei tribunali, bisogna che io penso che il movimento debba, o i movimenti debbano, elaborare e sviluppare questo pensiero critico anche sotto il profilo politico e farlo diventare senso comune nella società. Stare dentro, perché purtroppo in questa società stiamo, e stare contro, ecco, questo credo sia il passaggio che tocca affrontare. Anche qui bisogna dire che subito dopo la sentenza qualche voce, diciamo, della opinione pubblica mainstream aveva dato qualche segnale dicendo: guardate che questo affrontare in questo modo le questioni dei movimenti con questo tipo di condanna, con questo tipo di strumento repressivo, è qualcosa che non può funzionare. Furono voci isolate, anche se importanti, e però da allora, ecco, quelle stesse voci non si sono più riproposte su questi temi. In linea di massima direi che, ecco, questo è. E la campagna sull'amnistia può essere il volano per far lavorare, diciamo, i movimenti su questa campagna, che non è soltanto tecnico-giuridica, come diceva prima l'avvocato Crisci. Non possiamo rimanere soltanto dentro l'aula del tribunale, dobbiamo avere la capacità, anzi bisogna avere la capacità insieme di stare anche fuori dai tribunali e di far diventare queste idee senso comune e fare quello che in buona sostanza era nella democrazia ateniese la figura del parresiastes. Era quel soggetto che era capace di dire e aveva il coraggio di dire la verità al potere, quella verità che era sempre sgradevole per il potere. Ecco, questo io credo sia il compito che oggi tocchi da svolgere. Grazie. Con questa citazione di affiancamento anche alla Grecia, vabbè, andiamo a concludere. Io rinnovo anche l'invito che aveva fatto Giorgio di moltiplicare ambiti di discussione. No, ambiti di discussione del genere su diversi livelli, un po' in tutta la città, più larghi e partecipati possibili. E ringraziamo ancora il Teatro Vale per averci ospitato e basta. Alla prossima. E ricordiamo, visto che stiamo trasmettendo dai microfoni della radio, che oggi è il compleanno di Radio Onda Rossa, compie 36 anni, e quindi gli auguriamo, gli facciamo gli auguri, e si festeggerà domani al Volturno a partire dalle 21 con una cena e poi spettacoli teatrali, sul tutto con immagini anche e audio inediti della radio di allora. Si parlerà infatti del 1977. Questi supporti legali, perché poi ogni appuntamento, ogni corteo crea un nuovo supporto legale, no? Di persone che vanno in carcere o sono denunciate, perché poi di questo si tratta, e forse dovremmo fare pure anche noi uno scarto. Io faccio un paio di considerazioni e poi velocemente, perché poi il processo di Genova ha fatto scuola, ci siamo arrivati tardi a capirlo, molto tardi.